Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come d'abitudine, le informazioni di servizio, che sono il mio blog, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore, Guardie o Ladri, sapete di cosa tratto, legalità e soprattutto criminalità organizzata. La seconda informazione di servizio è quella che riguarda la possibilità di scaricare via internet sul nostro sito tutte le puntate registrate di questa trasmissione, ma ovviamente anche delle altre di Radio 24. L'ultima informazione, la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. E proprio la lettera di un radioascoltatore ci ha dato la possibilità di affrontare un tema legato ad alcune difficoltà di relazione con Sky. Voi sapete che non amo i casi personali, salvo che non rappresentino, diciamo così, una moltitudine di persone interessate. I casi personali giungono, sono tanti, ma non si possono risolvere, soprattutto non sarebbe corretto nei confronti delle centinaia di migliaia di radioascoltatori che ci ascoltano, che nel caso singolo non sanno francamente che cosa farsene. Un radioascoltatore però ha avuto un problema con Sky che verosimilmente è simile ad altre tipologie di molti clienti di questa splendida TV, e quindi noi abbiamo chiamato a parlare con noi il dottor Fabrizio Micale, che è il radioascoltatore della provincia di Forlì Cesena, che ha segnalato il caso. Buongiorno Micale. Buongiorno. E abbiamo la dottoressa Angela Gemma, che è la direttrice del dipartimento, sezione, ufficio, chiamatelo come volete, che si occupa dei rapporti di soddisfazione, diciamo così, dei clienti di Sky, una brutta sigla in inglese che non voglio nemmeno pronunciare, in buona sostanza è con la quale ha il compito, grato o ingrato a seconda dei casi, di relazionarsi con i clienti. Buongiorno dottoressa Gemma. Buongiorno a lei. Allora, io direi di partire dalla sua storia, Michele, prego. Sì, la correggo soltanto sul fatto che non sono dottore, ma questo al di là di tutto. In Italia un dottore non se ne nega nessuno, guarda. Esatto. Si tratta di questo: nella giornata del 23 di ottobre del 2009, nel primo giorno utile per poter aderire all'offerta, ho aderito telefonando a Sky all'offerta HD tutto incluso, che comprendeva praticamente la possibilità di avere un televisore in alta definizione, potendolo pagare in rate sull'abbonamento, e ovviamente un decoder in alta definizione allo stesso modo. Con me ha aderito anche un collega lo stesso giorno, e per farla breve, a distanza di un paio di settimane il mio collega ha avuto a casa il televisore che aspettava, e per quanto riguardava me invece il tempo passava ma non succedeva nulla. Passate svariate settimane ho dovuto affrontare un cambio di residenza, un trasloco da Roma a Forlì per motivi di lavoro. Ho fatto presente il tutto a Sky, però nonostante questo il televisore non arrivava. E nel frattempo aveva anche dato via il suo vecchio televisore, no? Ho fatto un'opera buona dando in beneficenza il mio vecchio televisore, visto che ero in attesa del nuovo, di caratteristiche tecniche sicuramente superiori. E niente, col passare del tempo però, non vedendo arrivare nulla, ho chiamato Sky per l'ennesima volta, peraltro anche a pagamento, visto che il call center comunque richiede una telefonata, un numero a pagamento, e nelle svariate telefonate che ho dovuto fare ho anche alla fine stremato dalla cosa, disdetto l'offerta al pacchetto HD per poterne usufruire tramite un loro punto vendita, in quello che loro chiamano uno Sky Service, in modo che da poter avere il televisore, diciamo, seduto a stante, ecco, perché lei ovviamente non voleva rinunciare all'offerta, all'offerta di Sky. Ecco, una curiosità, da ottobre, ma il problema poi alla fine l'ha risolto o non l'ha risolto? Il problema si è risolto nel momento in cui, devo dire, mi sono rivolto alla vostra redazione. Passato qualche giorno dal momento in cui sono stato contattato dalla vostra redazione, si è fatto vivo un funzionario di Sky che, gentilissimo, mi ha offerto di poter risolvere la questione che nel frattempo era cambiata, ovvero non si poteva procedere a prendere il televisore presso il punto vendita perché non si riusciva, per problemi telematici, così mi è stato detto, ad eliminare la pratica preesistente. Quindi risultava una pratica preesistente in piedi ancora che non aperta, consentiva di poter effettuare la pratica presso il punto vendita. Benissimo, io direi di fermarci qui perché il caso è molto chiaro. Mi pare di aver capito che comunque, al di là delle difficoltà, poi d'accordo, saremmo intervenuti anche noi, ma comunque Sky ha dato la sua disponibilità a risolvere il problema. Dottoressa Gemma, che cosa è successo a suo avviso e soprattutto quanti sono i casi che magari simili a questi prestano il fianco a critiche nei confronti di questa offerta che viene fatta ai potenziali clienti? Io vorrei iniziare ringraziando la redazione per averci segnalato questo caso e soprattutto scusandomi con Fabrizio Micale, che fra le altre cose è cliente di Sky dal 1999, il che rende ancor più imperdonabile tutto ciò che è accaduto in itinere. Un fedelissimo, insomma. Un fedelissimo, quindi se già comunque anche un nuovo cliente avrebbe avuto diritto a ricevere la sua televisione nell'arco di un massimo di, appunto, un paio di settimane, nel suo caso è ancora più grave, perché credo che la sua fedeltà andasse almeno premiata con le doverose scuse ben prima che dovesse ricorrere a lei. Che cosa è successo? È successo che l'operatore ha registrato la richiesta del cliente. Questa registrazione di norma si trasforma in un ordine a magazzino di spedizione. E in realtà questa richiesta è rimasta bloccata nei sistemi, non vi tedio con il tecnicismo, certo, su cui peraltro certo, neanche io sono un'esperta, e ragion per cui si è creato un rimpallo del tutto ingiustificato, per cui gli operatori telefonici sollecitavano logistica e logistica diceva: io non vedo l'ordine. Aperto il ticket a sistema, ha richiesto l'intervento di sistemisti per essere risolto e sbloccare non soltanto questo cliente, ma le posso dire che in quel lotto, in quel bacco di sistema, noi ne abbiamo rilevati un centinaio. Non ci fa onore, però questa è la verità. No, ma il problema è cioè il punto è poi essere disponibili a risolvere i problemi, e mi pare che da parte vostra questa disponibilità ci sia. Le volevo chiedere, dottoressa Gemma, ma a questo punto quali sono, come dire, le forme, se ce ne sono, che Sky mette in campo per cercare di essere più vicina ai clienti? Perché Micale avrà avuto questo tipo di difficoltà, ma altri clienti possono avere altri tipi di difficoltà, perché quello che poi alla fine colpisce, no, è il fatto che si chiama l'operatore ma si viene continuamente poi rimbalzati perché magari i sistemi tra di loro non comunicano. Allora credo che compito di un'impresa, certo, importante come la vostra, sia essere quanto più possibile vicino al cliente. La qualche idea l'avete? La metterete in campo? Assolutamente, ecco, sì. Prego. Allora, al di là del fatto che i nostri canali tradizionali devono essere e rimanere il punto di riferimento e migliorare anche in casi come questi un processo di identificazione del problema, nel caso specifico, siccome è possibile che qualche vostro ascoltatore abbia avuto problemi simili e voglia accelerare la risoluzione del problema, abbiamo fatto creare un indirizzo email ad hoc di facile memorizzazione, di modo da poterlo, appunto, pubblicare in questo momento, se me ne dà l'opportunità. Assolutamente, assolutamente, anzi deve dirlo, che così almeno tutti coloro i quali in questo momento ci stanno ascoltando, poi manderemo anche questa puntata in replica in modo tale che l'informazione giunga due volte, almeno diciamo a tutti i radioascoltatori: state per ricevere un indirizzo da parte di Sky, un indirizzo di posta elettronica che vi permette di segnalare i vostri problemi. Prego, dottoressa Gemma. Perfetto. L'indirizzo email è sos@skytv.it. Benissimo, la ripeto io, nonostante abbia una S molto sibillina, purtroppo è un difetto di fabbrica di mio papà e mia mamma. Allora, sos@skytv.it. Corretto. Benissimo. Aggiungo, direi, ripeto, qualcosa che non ci fa onore ma rende ancora più triste il caso e la prestazione fatta nei confronti di Fabrizio Micale, che in queste settimane abbiamo consegnato decine di migliaia di TV. Quindi io spero che i clienti che hanno avuto una prestazione migliore siano soddisfatti e mi auguro comunque che eventuali ascoltatori in una situazione critica possano utilizzare questo indirizzo email, su cui avremo un'attenzione particolare per dare la maggiore massima priorità a casi critici. Assolutamente, anzi, se lei me lo permette, dottoressa Gemma, visto che poi non è sempre così facilissimo trovare un'impresa che eroga servizi così disponibile, se i radioascoltatori volessero segnalare a sos@skytv.it le loro problematiche, poi magari affrontare le principali insieme, sarebbe una cosa gradita per noi e sono sicuro anche per Sky. Allora, io ringrazio la dottoressa Gemma, il nostro radioascoltatore, in regia Fabrizio Lacorte, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.